Continuiamo quindi questo pomeriggio insieme. Volevamo presentarvi un piccolo video, che un piccolo audio, diciamo, che probabilmente ha anche a che fare, sicuramente anche a che fare con tutto quello di cui parleremo oggi. Questo è un video, un documentario di Pina Caporaso e Daniele Lazzara, e si intitola Stereotipi e differenze di genere in una classe delle elementari. È molto interessante perché in realtà in una quarta elementare i bambini e le bambine sono stati messi in condizione di riflettere sull'identità di genere, sono state raccontate delle storie in cui questi stereotipi si rompevano, per cui i bambini sono riusciti a immaginare e a vedere anche una famiglia diversa, comportamenti diversi, ruoli tra uomini e donne che si rompevano e che si ribaltavano completamente, e davanti a queste storie i bambini hanno potuto riflettere, hanno potuto dire un po' la loro. Questa è una classe di 26 bambini e bambine, ci sono appunto due generi a confronto. Insomma, quello che è interessante in realtà è la capacità dei bambini di notare un po' le criticità e anche le ristrettezze di un adeguamento che viene loro richiesto fin da molto piccoli, un adeguamento molto rigido ai ruoli imposti di genere. Quindi direi, ci sentiamo, sono quattro piccoli file audio, durano 2 minuti l'uno, quindi insomma non vi spaventate. Sentiamo l'introduzione, la presentazione di questo video, di questo progetto all'interno di questa scuola elementare e di cosa parla appunto la prima storia che viene raccontata. Fanno parte di un'esperienza editoriale nata negli anni 70 che si chiamava Dalla parte delle bambine. Con gli animali come protagonisti, questi libri raccontano il rapporto tra maschile e femminile attraverso ruoli stereotipati e personaggi in grado di infrangere gli schemi. Sono stati di recente ripubblicati con le bellissime illustrazioni di Nella Bosnia e i testi di Adela Turen. Dividiamo la classe per poter discutere delle storie in piccoli gruppi. Questa modalità permette infatti di far emergere meglio il pensiero di tutti ed è un peccato che i continui tagli alla scuola abbiano eliminato, tra le altre cose, proprio questa possibilità educativa. La storia che segue, discussa all'interno di due gruppi, si intitola Arturo e Clementina. Si tratta di due tartarughe che si incontrano in un bel giorno di primavera e decidono di sposarsi la sera stessa. Clementina, piena di desideri, aspirazioni e progetti, vorrebbe imparare cose nuove, suonare il flauto, dipingere, viaggiare, studiare. Arturo risponde a questi desideri deridendola e caricandola di cose, un grammofono, un quadro, un vasetto di vetro di Murano, finché Clementina non può più muoversi, tanto è schiacciata dal peso di quegli oggetti. Una mattina, Clementina decide che la sua vita non può più continuare così. Esce dal guscio, prima per una passeggiata in assenza del marito, poi per andarsene per sempre, libera di viaggiare felice in giro per il mondo. Ma se Arturo era tanto innamorato di Clementina, perché gli diceva tutte quelle Eh sì, la domanda che ci dovremmo fare anche noi: se Arturo era tanto innamorato di Clementina, perché le diceva tutte quelle cattiverie? Perché si comportava in questo modo con lei? Però insomma, diciamo che noi di questi argomenti ne abbiamo parlato e straparlato qua da questi microfoni. Direi di dare adesso voce a questi bambini e bambine di questa scuola elementare e vedere che cosa ci rispondono. È riuscita, poi non è più tornata. Lei se n'è andata perché non voleva più il suo marito, perché la trattava sempre male, diceva cose che per lei la facevano dispiacere. Cioè, si scocciava di lui perché la trattava sempre male, poi se n'è andata perché si annoiava sempre, non sapeva cosa fare. Se parla dice sempre bischerate e se non parla dice che si annoia anche lui perché non parla mai. Non ce la faceva più a reggere quel peso. Alla fine gli sarebbe rotto la casa sua, Eh sì, di il sicuro. guscio, perché piano piano le cose aumentavano e lui le portava, forse era per dispetto. Poi ha scoperto anche che gli piaceva camminare, sicché non è neanche ritornata lì dove era Arturo. Forse era anche gelosa di lei. Cioè, forse che è invidioso perché lei ha tutte queste aspettative, tutti questi progetti, no? E lui non c'ha questa dose che c'ha Clementina. Allora, insomma, che ride, che la prende un po' in giro è come un segno di invidia. Ma secondo me Clementina non poteva parlare perché tutto quello che parlava Arturo lo cambiava. diceva tipo voglio, ho visto dei miei fiori e le voglio dipingere, e Arturo diceva sempre ma te non sai fare nulla, sei sbadata. Secondo me perché pensavo che era una femmina, allora le femmine pensavo che erano più deboli e alcune cose non le potevano fare, come tipo alcuni anni fa le femmine non potevano fare i lavori che fanno anche i maschi. Sembrava che non amasse proprio Clementina. Arturo fa la parte del cattivo e del buono, perché prima gli dice tutte cose brutte e poi dopo le va a pigliare. E poi io nei confronti di Clementina, appena mi avrebbe messo qualcosa addosso, sarei subito andata via. Io l'avrei detto subito, divorzio. Ecco, diciamo che questi commenti fanno abbastanza sorridere, perché ci sono tanti bambini e tante bambine che in realtà hanno una visione che non è così stereotipata come magari tanti e tante adulte hanno. È interessante, secondo me, la visione dell'amore dei bambini maschi, perché molti di loro si chiedono perché questo tartarugo impedisce alla tartaruga di fare ciò che voleva, insomma, e immaginano che quello non sia l'amore, ma riescono a vedere un tipo di rapporto diverso che è fatto di rispetto reciproco. Secondo me questa è anche una parte abbastanza interessante. È interessante anche il fatto che la maggior parte dei bambini sarebbero soprattutto la maggior parte delle bambine sarebbero andate via, non avrebbero accettato di rimanere bloccate in un rapporto che le schiacciava. In questo caso anche la figura, questa figura di pesantezza era in realtà reale, perché questa tartaruga veniva sovrastata da oggetti sempre più pesanti in modo che non si potesse muovere in nessun modo. Il tartarugo provvedeva ogni tanto a portarle da mangiare e una bambina nota questo sottile gioco di Arturo, che si prende cura di lei portandole da mangiare, quindi lei dice però è stato bravo lui perché si è preso cura di lei, mentre in realtà un'altra bambina riconosce chiaramente il fatto che lei dipendeva totalmente dalle attenzioni di lui, proprio perché impossibilitata a muoversi materialmente. Quindi secondo me questo, diciamo che è un ragionamento anche sottile e complesso, non è abbastanza scontato, insomma, per una bambina di quell'età. Evidentemente il lavoro di decodificazione a scuola funziona, o probabilmente sì, diciamo che, come anche ci suggeriva una redattrice prima mentre discutevamo di questo video, probabilmente il lavoro di incanalamento negli stereotipi più forte viene fatto durante l'adolescenza, perché in fondo se noi ci pensiamo i bambini quando nascono non sanno la differenza tra maschio e femmina, insomma siamo noi che gliela insegniamo. Insomma, mondo degli adulti che, diciamo, che interviene anche abbastanza tempestivamente e precocemente sul modo di essere dei bambini e delle bambine e sulle cose da fare e non fare in quanto maschi e femmine, per cui c'è un'aspettativa rispetto alle bambine e rispetto ai maschi che sono completamente differenti. Dalle bambine ci si aspetta che usino le proprie energie, le proprie virtù per avere successo, gli si insegna ad essere docili, pazienti, insomma si insegna che il maschio è fatto così. In realtà è che noi dobbiamo avere pazienza e che dobbiamo accettarlo e rassegnarci in qualche modo e rimanere incastrati in matrimoni e situazioni familiari o di coppia senza che ci sia il matrimonio, dalle quali non possiamo uscirne in nessun modo. Ci si insegna che il corpo femminile è provocatorio, è pieno di vergogna, che suscita anche degli istinti aggressivi nel maschio, quindi dobbiamo sia essere sexy per loro sia coprirlo e difenderlo. Diciamo che insomma le bambine sono bombardate da messaggi abbastanza contraddittori e sono molto difficili da decodificare, da riconoscere, quindi che a quest'età alcune cose già si riescano a intravedere, le bambine riescano a dare voce al loro malessere, penso sia abbastanza importante, anche perché ai maschi invece vengono dati dei messaggi molto più chiari: bisogna che siano forti, coraggiosi, avventurieri, lavoratori, non devono piangere, devono essere soprattutto eterosessuali. A loro sono lasciate tutte le avventure migliori, Gli si insegna che un maschio non deve chiedere, che il mondo è il suo possesso, il bambino quando nasce non lo sa spiegare, ma in realtà già ha questa percezione, tutto il mondo è suo e può disporne come vuole, e tra questo tutto sono comprese anche le donne, quindi in questa storia è compresa anche questa tartaruga che non ha diritto di avere una vita al di fuori del suo compagno. Le bambine, fortunatamente, molte se ne sono accorte e come strategia propongono quella della fuga, che mi sembra in questo caso la migliore. Comunque sentiamoci magari anche altri commenti che sono stati fatti sempre rispetto a questa storia, un altro minuto e 20 e poi ci risentiamo in voce. Ma secondo me Arturo non è che l'amava tanto, perché non gli lasciava fare niente. E quando uno ama una persona invece come si dovrebbe comportarsi? Bene, se la sposa, scusami. Se tu fossi stato Arturo, cosa avresti fatto? Come ti saresti comportato? Gli avrei lasciato fare quello che desiderava, tipo andare a Venezia a pitturare, invece che fare tutta quella fatica di trasportare tutti gli oggetti. Arturo poi in una parte è stato anche bravo, perché gli ha portato da mangiare, però quella è stata l'unica volta che gli ha portato da mangiare. Sì, ma poi allora faceva tutto il presuntuoso perché diceva cosa faresti senza di me. Però, cioè, tutto sommato, Clementina, cioè, si accorgeva che aveva ragione, perché con tutte quelle cose, cioè, con tutti quei piani, allora chi glielo portava da mangiare? Io gli avrei detto, o l'avrei lasciato, e sarei andata a conoscere altre tartarughe, o se no avrei fatto come lei, scappare e non ritornare più. Ma poi alla fine ti sono lasciati o si sono risposati? Penso con l'essere andata e poi non ti sono più. Sì, diciamo che questi commenti racchiudono un po' il discorso che facevo prima, ovvero che la strategia che viene usata dalle bambine in questo caso è quella della fuga, ovviamente quello di riprendersi la propria vita, perché la tartaruga in realtà all'inizio vuole solo liberarsi, è un processo anche abbastanza inatteso, una liberazione anche abbastanza inattesa. La tartaruga vuole solo fare una passeggiata, poi scopre, come dice il bambino nel commento, scopre che le piace talmente tanto camminare che non torna più. Insomma, la cosa buona è che nessun bambino maschio, neanche nessuna bambina, propone come strategia quella di rimanere con il marito. Certo, non si riesce a immaginare magari un rapporto di coppia del fuori del matrimonio, ma vero è che insomma che in queste storie si parla di una coppia sposata e quindi questo è. Eccoci qua, torniamo in voce e ci andiamo a sentire l'ultimo estratto da questo documentario. Dopo vi dirò tutti i riferimenti per trovarlo in rete, così lo potete vedere, dura 50 minuti. Io ho preso un piccolo estratto per fare, insomma, che sembrava interessante, quindi mi andava di parlarne anche con tutti e tutte voi. In questo ultimo estratto viene chiesto ai bambini e alle bambine come è organizzata la vita nelle loro case, perché viene presentata loro, nell'audio non l'ho messo, però insomma ve l'anticipo io, viene presentata loro una seconda storia che parla di un marito, di una famiglia di topi, un marito topo che da padre a padrone, dopo aver rischiato di perdere la famiglia in seguito a una catastrofe, a un'alluvione in cui hanno perso case, hanno perso tutti i loro beni, diventa un padre e un marito attivo e attento e anche affettuoso. Quindi ai bambini viene chiesto, ma dentro casa vostra come sono i ruoli, come è organizzata la vita? E questo è il modo in cui rispondono i bambini e le bambine. Voi se doveste pensare, diciamo, a come funziona da voi, no, a casa vostra, come prima della catastrofe e come dopo la catastrofe a casa vostra? Forse dopo. Dopo la catastrofe. Dopo la perché comunque giochiamo e non importa che la mamma sia a servizio del babbo per forza. Anche il babbo può cucinare e rinunciare a qualcosa. Se voi pensate alla vostra vita domestica, da voi chi è che fa le faccende? La mamma. La mamma. Secondo me, allora, le mamme tengono la famiglia e la casa a tenerla ordinata. Invece i babbi sono più lavorosi, lavorano leggermente di più delle mamme. Secondo me si aiutano, si prendono cura dei figlioli. La mia mamma cucina. E mio babbo lavora. La mia mamma prende cura di noi, va a fare la spesa, fa da mangiare, ride con me. E il mio babbo, anche lui, ha detto Simone, guarda le partite, non sono nata, però viene a giocare con me, ci fa ridere anche con anche la mia mamma. Mamma. Si gioca, mi porta a scuola. A volte la sera il mio babbo, senza di nulla, si alza da tavola, va in cucina e ricoverna. E mette, insomma, sciacqua un po' e poi li mette in lavastoviglie. E la mamma gli dice sta fermo e poi lei una mavoglia. Il mio babbo lavora meno della mamma e quindi io esco più con il babbo che con la mamma, perché la mamma fa la spesa quando viene da lavorare, fa cucina la sera, il babbo cucina il pomeriggio e basta. Però magari cucinare anche il mio babbo, anche se non c'è la mamma, cucina lo stesso. È vero, anche il mio babbo. Anche il mio, sì, anche il mio. Mio babbo fa anche la pasta qui. Eccoci qua, questo era l'ultimo audio. Ricordiamo che stiamo commentando un video, un'intervista fatta su stereotipi e differenze di genere in una classe delle elementari. Il video si chiama Bomba libera tutti, se volete cercare in rete lo trovate molto facilmente. Diciamo che il tono di queste risposte è nettamente diverso dal primo, nel senso che ai bambini e alle bambine viene chiesta come è organizzata la vita nelle loro case, e vediamo che c'è una consapevolezza più grande dei ruoli che le mamme e i papà svolgono all'interno dell'ambiente familiare. Ci sono alcuni bambini e alcune bambine che evidentemente hanno degli esempi positivi di genitori che non riproducono proprio lo stereotipo uomo-donna, ecco, come magari 50 anni fa, però diciamo che la maggior parte dei bambini e delle bambine intervistate rispondono anche che i maschi devono aiutare in casa, devono aiutare, per cui non si esce ancora dalla concezione di naturalità di una mamma casalinga. Forse probabilmente anche il modo in cui le loro famiglie sono organizzate è quello, e quindi non si riesce ad andare oltre. La cosa che mi viene da notare è che nella prima storia sia i bambini che le bambine condannano il comportamento di Arturo senza nessun ripensamento, senza nessun dubbio, ma forse perché lì c'è una violenza evidente, per cui è proprio un uomo che rinchiude una donna e non le fa vivere la propria vita, bloccandola materialmente. Forse è questo che fa la differenza nel pensiero dei bambini e delle bambine, forse è questo che magari non gli fa fare questo salto, anche sicuramente anche insomma l'età, perché poi il concetto di femminilità nelle bambine è una vera mutilazione della personalità. Insomma, questa continua richiesta alle ragazze di essere femminili sembra molto naturale in queste risposte dei bambini e delle bambine nella seconda, in quest'ultimo audio è abbastanza evidente, insomma. Ma in realtà, se questa richiesta di essere naturalmente femminili fosse naturale, se lo fosse veramente, non bisognerebbe insisterci tanto. Forse probabilmente il lavoro che hanno fatto queste maestre all'interno di questa scuola elementare probabilmente è anche un un piccolo seme l'ha gettato, cercando di scardinare quelli che sono i consueti stereotipi. Ci sembra un lavoro abbastanza interessante, sicuramente lungo, però magari è un primo passo, da qualche parte bisogna pur cominciare. E quindi vi ricordo, questo video si chiama Bomba Libera Tutti, lo trovate tranquillamente su YouTube. L'autrice è Pina Caporaso insieme a Daniele Lazzara. Questa è una scuola, una classe di 26 bambine e bambini, e direi che per ora, insomma, questo piccolo approfondimento, questo piccolo finisce qui.